io non sono mai stato favorevole a tutti quei discorsi che ho sentito in questi giorni di fare playoff, di fare addirittura premiare la squadra che è prima in classifica adesso. Secondo me bisogna fare, cercare di fare di tutto per finire il campionato. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci aspettavamo oggi nessun tipo di decisione definitiva, abbiamo fatto una riunione in videoconferenza, ho dovuto pensare di doverci allenare insieme oggi, probabilmente non c'è la situazione del paese che lo consente, no? Sicuramente quello che è il lavoro che ha fatto la federazione, la commissione, quello che stiamo facendo, quello da parte nostra è quello di capire se ci sono e ci saranno le condizioni per poter ripartire. Si potrebbe andare a terminare il campionato, andare alla fine di quest'anno, 2020. L'anno prossimo inizi il campionato nuovo a gennaio o febbraio, vai avanti, fai la pausa per gli europei, poi chiudi il campionato a novembre, così arriviamo belli belli freschi ai mondiali del 2022 e facciamo il mazzo a tutti. La richiesta che è stata fatta è quella di rimettere in moto il meccanismo calcio quando anche tutto il paese avrà a disposizione i test e i tamponi che si richiedono per far ripartire le squadre di calcio. E soprattutto nelle zone dove oggi l'emergenza è ancora forte e le esigenze ospedaliere sono di un certo tipo e quindi non si vuole passare per privilegiati, d'altra parte c'è anche l'esigenza di dire siamo lavoratori e quindi capire come tornare a fare il nostro lavoro. La cosa che fa rabbia non è che è fare i tamponi ai calciatori, ma per carità, la cosa che fa rabbia è che non si capisce perché per i calciatori escono e per i poveri cristi no. Tommasi, vostre opinioni continuate a mandarle, a farvi sentire 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. In fondo in questi giorni siamo qui apposta per capire quali sono i sentimenti e le opinioni un po' di tutti. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Anticipo subito che domani non ci sarò a farti compagnia, anzi non farai compagnia, ma faccio un giorno di ferie. Ci sarà Giovanni Capuano, ma soprattutto ci sarà Pierluigi Collina, già te lo dico e ve lo dico. Quindi preparatevi. Io saluto un amico, direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino. Ciao direttore. Ciao carissimo. Ciao, come stai? Ciao. Puntualizzo che sono direttore sportivo e non direttore generale. No, è la carica quella, so, che ho. Io ti farei direttore di qualunque cosa, ma comunque ieri in chiusura di programma ho già in contumacia di Pierluigi Pardo, ho letto le dichiarazioni di Spadafora, tra virgolette, 0-0 senza tiri in porta. Mi sembra di intravedere il solito equivoco di fondo, cioè l'equiparazione dei professionisti, dello sport e dei calciatori con quelli che potranno dal 4 maggio probabilmente andare a correre nel parco, ci andranno anche i giocatori. Tu hai qualche idea diversa? No, io non ho idee diverse e comunque sono di fondo un po' pessimista sulla situazione, voi lo sapete perché al di là della tanta voglia che c'è da parte di tutti di riprendere questa bellissima attività di cui siamo tutti, oltre che professionisti, anche appassionati noi del calcio, è chiaro che questa voglia che c'è cozza poi con la quotidianità e ancora la realtà di questa malattia che non è passata, non siamo ancora in una situazione, o perlomeno in tutte le zone d'Italia non siamo ancora in una situazione di poter dire il pericolo è scampato. Io, vedete, in questa situazione del coronavirus sono riuscito sempre a portarmi un po' più avanti degli altri, cercando di andare a vedere cosa succede in Cina oggi e proiettandolo alla situazione nostra con un parametro di 2 mesi e mezzo dopo. Allora, in questo momento qui in Cina, a Wuhan per la verità, che è il posto dove è scoppiata la malattia, due giorni fa il club ha finalmente convocato la squadra, quindi sono cominciati ad arrivare i giocatori dall'estero, perché è una squadra importante lo Wuhan. E quindi questo serve a dire che da noi, che la pandemia è scoppiata nella sua fase proprio critica 2 mesi e mezzo dopo, io mi rapporto che non siamo ancora pronti per riprendere, secondo me, a livello di pericolosità di quanto genererebbe sia per gli atleti che per gli indotti una ripresa. E poi bisogna farlo in tutta sicurezza, e che competitività c'è, che propedeuticità alle partite c'è ad allenarsi distanziati in uno sport come il calcio, che è uno sport di contatto, e come andare a correre nel parco, come dicevi tu, cioè non sì. è niente di diverso. Sì, il fatto è che qualche decisione andrà presa, cioè la Cina certamente, e hai ragione, però Pierluigi oggi si è riunito a lui e fa che ha ribadito il concetto: i campionati cerchiamo di finirli, se poi proprio non sarà possibile in nessuna maniera, varranno per l'ammissione alle coppe, mi è parso di capire, i ranking attuali, quindi verranno cristallizzate le posizioni attuali. Quindi da un lato c'è la Cina, è vero, dall'altro però c'è un movimento europeo del calcio che ha in parte altre posizioni. Sì, sì. Poi ci sono ovviamente le specificità paese per paese, ad esempio noi, facendo un paragone fra le 5 principali leghe europee, siamo quelli messi peggio, perché siamo quelli dove il virus è arrivato prima, quindi abbiamo ancora 12 giornate virgola qualcosa, c'è qualche recupero da giocare, mentre nella maggioranza degli altri paesi ci sono 9 giornate. L'Inghilterra ha la complessità della Coppa, che è un po' più indietro, ma insomma siamo quelli messi peggio, perché appunto il lockdown è arrivato prima, perché il virus è arrivato prima, quindi per essere competitivi dovremmo ripartire prima, ma ripartire prima è complicato. Insomma, mi sembra che al di là del modello tedesco, sappiamo che la Germania è l'unica vera eccezione, numeri alla mano, di questo virus, di questa pandemia, perché in Germania, ragazzi, per un motivo o per l'altro sono riusciti a limitare moltissimo i morti, ad aumentare moltissimo i guariti, e forse un ragionamento bisognerà farlo, studiare alcuni modelli che evidentemente funzionano, perché questo è oggettivo, insomma, al di là del fatto che poi uno può avere più simpatia magari per popoli latini, però insomma, oppure no magari, però sì, va veramente studiato col massimo del rispetto possibile. No, quindi certo, io condivido la posizione del direttore, cioè io credo che ci sia un grande ottimismo della volontà, che credo sia doveroso da parte di chi fa il dirigente sportivo, nel senso che le posizioni preconcette sul non si può fare non mi piacciono, mi sanno in qualche caso di situazioni di comodo e in qualche caso proprio di mancanza di attributi da dirigente. Il dirigente, il manager, deve essere in grado di delineare gli scenari, deve essere ottimista per definizione, deve credere nella possibilità della ripartenza. Poi sì, è ovvio, come diciamo ormai da un mese e mezzo come un disco rotto, che deciderà il virus. Sì. E questo virus, lo sappiamo, può girare, perché veramente nessuno sa nulla. Può essere una cosa che non ci togliamo più dalle scatole per lungo tempo, può essere anche una cosa che sparisce, come nel caso della SARS, può essere una cosa che si imborghesisce o si affievolisce con la buona stagione. Allora a quel punto è meglio giugno di ottobre, sì, è meglio giugno di novembre, paradossalmente. No? Possono essere quindi un sacco di cose, ovviamente. Però rimane il fatto, Pierpaolo, che come insomma la Germania oggi dichiarerà la sua riapertura il 9 di maggio, situazione diversa, modello diverso, tutto quello che ha detto Pierluigi, ha premesso Pierluigi, è sacrosanto, però anche lì vedere comunque che qualcuno con le modalità corrette e soprattutto condivise riparte può avere un impatto, in qualche modo può avere un impatto anche sugli altri, no? No, sicuramente io sono perfettamente d'accordo con quanto dice Pierre, sposo le sue tesi assolutamente, però faccio delle riflessioni, no? A parte che noi possiamo trovare anche nel modello Italia delle zone geografiche delle regioni, per meglio dire, dove la pandemia ha colpito, quindi non ne farei un problema di sistema Germania piuttosto che Italia, però questo è un discorso da epidemiologi. E non è un discorso da me, diciamo, non sono un dottorologo, però vorrei dire la paura è questa, quella che comunico io, no? Perché sono un dirigente che deve anche poter ripartire per salvaguardare anche alla fine la sua passione, la sua professionalità, e quindi salvaguardando la ripartenza del calcio come movimento pienamente credibile come lo era fino a due mesi fa. Allora io dico, noi ci preoccupiamo di questa stagione, però in realtà ci dovremmo preoccupare anche della prossima, perché la prossima, se non dovesse ripartire in maniera di pieno regime e con la convinzione di poter far tutti fino alla fine del campionato, un campionato quantomeno apparentemente regolare, insomma, dal punto di vista dello svolgimento, lì veramente potremmo arrivare al crack di alcune società di calcio, perché si rimetterebbe in discussione tutto e di più, sì, da un punto di vista economico, mentre i danni, per quanto ingenti, di un mancato finale di questo campionato sono comunque riparabili nel tempo, e il calcio trova poi i suoi riequilibri, li ha saputi sempre trovare in qualsiasi situazione. A questo proposito, no, perché volevo dire, la riflessione è questa, sentivo prima un ascoltatore che diceva partiamo a dicembre col nuovo campionato, a gennaio e così. Ma le stagioni calcistiche, i bilanci di molte società di conseguenza, così come i contratti e i tesseramenti, finiscono al 30 giugno di ogni anno, e già avvocati molto importanti della Premier League, così come ora si sta rendendo conto anche l'UEFA, hanno sentenziato che la prorogabilità obbligata da parte degli enti sportivi dei contratti a giocatori, tecnici e protagonisti del movimento non è possibile. Più ci sono i giocatori in prestito che al 30 giugno devono ritornare alle società di origini, no? Quindi faccio il caso di quei giocatori che le società hanno comprati. Una delle premesse era quello di rimuovere questo tipo di ostacolo legale. Ma non si riuscirà, perché i contenziosi saranno talmente tanti, perché il primo giocatore che non rinnova fa saltare il banco. Sì. E le trattative sono singole, non di categoria. Senti, ma l'altro giorno parlavamo l'altro ieri, di una Lega che si era espressa all'unanimità, cioè che aveva trovato compattezza sul fatto di provare a riprendere. È compatta la Lega, infatti è compatta, me lo confermo. Vogliamo tutti riprendere, infatti noi chiediamo, anche l'Udinese chiede il rispetto di tutte quelle che sono le tutele degli atleti, dei dirigenti, del personale che dovrà attuare il protocollo per la ripresa, ma assolutamente noi vorremmo stare in campo il più presto possibile, ovviamente, perché questo aiuterebbe a portarci fuori dalla crisi che economica, certo, che ci sarà sicuramente. Noi dobbiamo salvaguardare il bene del calcio. Allo stesso tempo c'è anche però un aspetto romantico, che è quello di salvaguardare anche quelle che sono le aspettative dei tifosi, che sono i primi protagonisti del calcio, perché non possiamo poi riprendere a tutti i costi disamorando la gente, che in questo momento ha altre problematiche, per cui le sfaccettature sono diverse, e sappiamo quanto diverse, perché in questo momento non vedo un tanto seguito e apprensione sulle notizie di quando e come riparte il calcio da parte delle tifoserie, ma le vedo più concentrate su drammi importanti che città come Milano, Brescia, Bergamo stanno avendo, insomma, interrogare i tifosi per crederci. Qui a Udine i tifosi nostri, diciamo i gruppi più numerosi e quelli della Curva Nord, stanno impegnati a fare beneficenza e volontariato presso gli ospedali. Questo anche a Bergamo. Il fatto che riprenda il calcio è l'ultima cosa che interessa, insomma. Quindi siamo noi dirigenti che dobbiamo preoccuparci di più di questo. però dobbiamo anche, sono completamente d'accordo su questo, e lo dicevo qualche giorno fa, oggi, ieri, adesso vedremo il solito bollettino delle ore 18, in questo momento pensare a delle partite di pallone con 400-500 morti, ancora situazioni molto calde come quelle di Piemonte e Lombardia, sarebbe veramente stonato. Però, e prendo in prestito le parole di Burioni dell'altra sera, questo è comunque, tra le tragedie umane, è una tragedia veloce, cioè ai tempi della modernità. Noi 50 giorni fa o 60 giorni fa non potevamo mai immaginare quello che sarebbe successo. Quindi da qui a un mese la situazione può cambiare, e la capacità dei bravi dirigenti in ogni settore, della politica, del mondo imprenditoriale, di qualsiasi mondo, è quella di riuscire in qualche modo ad anticipare, a leggere. E qui la soluzione ottimale non c'è, perché per tutte le cose che diceva giustamente il direttore, perché c'è tutta una serie di vincoli di natura legale che sarà molto molto difficile rimuovere, perché comunque se anche si riuscisse a tornare in campo, si tornerebbe in campo senza pubblico, e questo da un lato rappresenta un dolore dal punto di vista romantico, ma anche dal punto di vista economico, comunque in ogni caso è una perdita. Insomma, cioè, la soluzione ideale è quella senza rischi, non c'è. Sì, quindi sì, bisognerà poi valutare a un certo punto la soluzione migliore, mettendo, ed è un calcolo, ci vorrebbe un algoritmo, ma ci vorrebbe un algoritmo perfetto che non c'è, la soluzione perfetta non c'è, non ci sarà. Però si deve lavorare. Però si deve lavorare per disegnare gli scenari. Il nostro compito è quello. E soprattutto ci vuole coordinamento internazionale, perché in questo senso appunto. Ecco, appunto, perché, non si può andare a mille velocità, anche perché se l'Italia può anche tirare giù la Clare oggi pomeriggio, però se l'UEFA dice che le coppe rimangono in ballo e deve definire dei calendari, magari si giocheranno le finali di Champions ad agosto, quindi che si fa in un'ottica di coordinamento. L'ultima cosa per quanto mi riguarda, Pierpaolo, invece rapporti con le TV, qual è lo stato dell'arte? Cioè Sky e DAZN dovranno pagare oppure no? Secondo i club. Ma vedi, il rapporto fra gli sponsor istituzionali, praticamente, che sono i broadcaster, e la Lega, le società, è stato sempre un rapporto aperto, cordiale, quindi io credo che le soluzioni si troveranno a questo. Il problema, come dicevo poc'anzi, io non credo che si andrà in una conflittualità, perché comunque c'è un contratto e saranno rispettati tutti i vincoli del contratto, e poi io non credo che si andrà in una onerosità, però in una diatriba legale, perché è vero, le società di Lega vivono attraverso, o meglio hanno le risorse maggiori da dedicare alla costituzione delle squadre, e quindi anche al mantenimento delle squadre stesse dai broadcaster, però è anche vero che le piattaforme senza il calcio non potrebbero sopravvivere, molte piattaforme, per cui è un rapporto di simbiosi che non può essere intaccato, quello, per cui io non vedo problemi, questo è l'ultimo dei problemi secondo me, soprattutto se noi saremo proiettati anche a tutelare la prossima stagione, perché io sono preoccupato principalmente per quella, perché io ho una visione prospettica, d'accordo con Pierluigi al 1000%, io dico che il dirigente deve saper guardare più avanti, e mi fido poco dei dirigenti internazionali, perché finora hanno detto la qualunque, perché hanno difeso gli europei, hanno difeso le coppe, si è fatta giocare una partita Atalanta-Valencia, che sappiamo tutti che partita è stata, per il dolore di tutti in Spagna e in Italia, quantomeno un nefasto contributo quella partita alla Dana. Io mi fido meno di quelle dichiarazioni, che poi sono anche a volte improvvisate, perché due settimane fa l'UEFA e la FIFA hanno sostenuto che i contratti erano prorogabili da autorità, salvo poi fare marcia indietro. Questo è un punto determinante, questo, perché se gli ostacoli vengono rimossi, bene, altrimenti di che stiamo parlando? Grazie per Paolo, ti abbraccio. Prego, arrivederci. Ciao. A tutti, anch'io vi abbraccio, arrivederci. Ciao. Stacchiamo un attimo, poi a proposito dell'operato dei dirigenti interroghiamo insieme Antonello Valentini, che vedo già collegato, tra un attimo. Basta, 2020 non esiste, si riprende il prossimo anno come se quest'anno non fosse successo niente. Amen. Uè, che devi fare? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Antonello Valentini ti ho già annunciato, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ciao. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie a te. Con Pierpaolo Marino, insomma, lui puntava il dito sull'operato di dirigenti internazionali. Ho sentito solo l'ultima parte. Che dici? Ma io mi auguro, tenendo conto che l'Italia è l'unico paese che ha 3 rappresentanti nel comitato esecutivo della UEFA, il vicepresidente Uva, il presidente della Juventus Agnelli e in rappresentanza della FIFA Evelina Kristelen, l'unico paese tra 55 della UEFA. Spero che i nostri 3 rappresentanti almeno questa volta si facciano sentire. Io anch'io non sono proprio entusiasta come Pierpaolo dell'andamento della situazione politica in seno alla UEFA. Ho visto molti ondeggiamenti, molte titubanze, qualche, voglio dire, ritardo nelle decisioni, ma voglio essere ottimista, perché oggi hai visto che la UEFA ha appena rinviato al 2022 gli europei femminili e va bene, però ha dato anche un'indicazione di massima che a noi interessa molto per quanto riguarda la partecipazione alla Champions League l'anno 21 se non si dovessero finire i campionati. E quindi dice bisogna privilegiare il merito i meriti acquisiti sul campo, il che cambierebbe molto per noi, perché in questo caso con i meriti sportivi in Champions ci andrebbero Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Se invece si dovesse adottare il criterio del ranking della UEFA, la Roma e il Napoli prenderebbero il posto dell'Inter e dell'Atalanta. Quindi vuol dire è una cosa abbastanza interessante, che ovviamente scatenerà tante polemiche, perché come la fai la sbagli, intendiamoci. Vabbè, quello dei limiti non si dovesse riprendere, questa sarà la madre di tutte le polemiche, no, Pierluigi? Esatto. Assolutamente. Dimmi. No, vai. No, ti volevo chiedere una cosa, se condividevi la mia sensazione comunque, che al di là di tutto, a me invece sul fronte interno è piaciuto fin qui molto l'atteggiamento del presidente Gravina, che ha tenuto la barra dritta comunque nella bufera, mantenendo una posizione di grande coerenza. Sì, di grande coerenza, ripeto, secondo me è dovere, non è un diritto dei dirigenti del calcio immaginare la ripresa, delineare degli scenari, rendersi disponibili. Lavorare per la ripresa, e quindi non stare qui ad aspettare gli eventi, ma cercare in qualche modo di prevederli e di guidarli nei limiti del possibile. Poi lo stesso Gravina non ha mai detto che vorrebbe scendere in campo a dispetto dei santi della scienza e dei virologi. Quindi sono d'accordo con te. Bisogna provare, come diciamo ormai da 40 giorni. Bisogna lavorare per la ripartenza, come in tutti gli altri settori della vita, così come i ristoratori. Posso aggiungere una cosa, ovviamente cercando di sfuggire alla retorica fin troppo facile. Abbiamo tutti in questo periodo uno stato d'animo che ci impone misura, senso della proporzione. È faticoso parlare di calcio e di sport con quello che ci circonda, intendiamoci. Questa è la premessa di tutto, altrimenti sembriamo dei marziani e il calcio rischia di apparire un mondo a parte. Però detto questo, io vorrei capire perché la Federazione Tennis giustamente sta preparandosi a disputare gli internazionali d'Italia a settembre. Perché gli organizzatori del Giro d'Italia ciclismo, che è uno sport di contiguità come il calcio, forse anche peggio, con una carovana che si muove in tutta Italia, perché gli organizzatori del Giro d'Italia stanno giustamente preparandosi a organizzare e a far disputare la corsa a ottobre, e il calcio invece non può prepararsi. Non sto dicendo, come ha già detto benissimo Gianluigi, che dobbiamo giocare per forza qualunque cosa accada, no, si sta preparando a un piano per la ripresa dell'attività. Io poi, siccome voi allargate giustamente per fortuna il discorso ad a tante altre attività sportive spesso, altrimenti diventiamo dei maniaci del calcio, anche se io sono un appassionato di tutti gli sport, vorrei capire perché non si apre un dibattito sulla tutela, sulla salvaguardia, sulla ripresa dell'attività degli atleti olimpici, che hanno già dovuto far saltare la preparazione per queste Olimpiadi che non si disputano e dovranno riprogrammare la loro preparazione. È una competenza del CONI. Che cosa si sta facendo? Chiedo a me stesso. Il CONI cosa sta facendo per preparare un piano di ripresa degli allenamenti degli atleti olimpici? Per fortuna, ho letto l'altro giorno, il segretario generale Carlo Bornati ha preso l'iniziativa e il 28 aprile, proprio, siamo al 28 aprile già, ha convocato i direttori tecnici di tutte le federazioni sportive, esigenze e proposte è il tema dell'incontro. Per fortuna, finalmente. Io ho letto stamattina le dichiarazioni di Cassani, commissario tecnico del ciclismo, sacrosanto. Guarda, lo chiamiamo dopo, lo chiamiamo più tardi, già te lo dico. Ho visto. Ho letto l'intervista del presidente della federazione nuoto che dice il CONI ha direttamente responsabilità della sua preparazione olimpica. Chiamasse le federazioni che hanno atleti di area olimpica e dicesse come pensiamo di riprendere. L'altra settimana Federica Pellegrini, campionessa che tutti amiamo, ha accusato, ha fatto una protesta sacrosanta. Si parla solo di calcio, ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ma a chi lo dice la Pellegrini? Abbiate pazienza, scusatemi. È tutto perfetto, però fino a che siamo al punto per cui anche a livello non si parla sui giornali, anche a livello istituzionale. No, io vi ringrazio anche di questa opportunità e di questa apertura al no, io al di là del fatto che non vedo l'ora di abbracciare Antonello in quel ristorante a Prati che frequentiamo tutti e due dove tu monopolizzi le sale, però io monopolizzo le sale, ma siamo che vuol dire abbracciarsi al ristorante, sono due parole al momento vietate. Esatto, soprattutto perché lì si sta veramente addossati l'uno con l'altro ed era anche bello, e quindi il mio amico Lucio Valerio dovrà un po' ripensare ai tavoli, ma al di là delle cazzate, lui monopolizza l'esame ma paga solo per se stesso, però, eh? Buono. No, invece no, il motivo volevo dirti sul primo elemento, no? Cioè quello del Giro d'Italia, degli internazionali d'Italia. Il calcio ha una specificità, nel senso che il calcio non ha un evento all'anno, il calcio a settembre già deve cominciare idealmente la stagione successiva. No, però voglio dire, dal punto di vista diciamo sanitario e della sicurezza, il ragionamento non fa una piega. Infatti poi alla fine, se il virus deciderà che quella è la strada, non abbiamo molte alternative. Però è ovvio che il calendario del calcio è completamente diverso, quindi è chiaro che il ciclismo può anche immaginare, in una stagione in cui non c'è stato nulla, di andarsi a prendere uno slot successivo, come ha fatto il Roland Garros in tempi proprio non sospetti, anticipando tutti e provocando anche parecchie polemiche. E lo stesso può fare ovviamente il Giro d'Italia, possono fare gli internazionali d'Italia, può fare la Ryder. Cioè, qui però invece c'è un calendario che già nasce come estremamente complicato, dobbiamo fare 124 partite per completare la Serie A, servono 124 partite, le giornate ordinarie più i recuperi che ci sono, senza contare poi quelle che devono fare anche negli altri campionati, a rischio di creare un casino per quanto riguarda la struttura dei prossimi campionati. Insomma, mi sembra che il quadro sia complicato e in questo momento irrisolvibile. Ragazzi, io vi ringrazio perché adesso, dopo la borsa, devo chiamare, a proposito di altri sport, Giorgio Terruzzi, perché anche la Formula 1 ha ovviamente le sue grane, e poi ci sono Vettel e Leclerc che si sono fatti entrambi sentire manifestando la loro meravigliosa diversità, e poi chiamiamo appunto Davide Cassani, CT del ciclismo. Non bisogna avere fretta, dobbiamo aspettare che passi sto cacchio di Covid e poi si riparte. Anche a gennaio si assegna lo scudetto, chi deve andare in Champions va in Champions, chi deve retrocedere va a retrocedere, così nessuno ha da dire niente e vissero tutti felici e contenti. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Cos'è la cosa più strana che hai fatto in questi giorni? Forse leggere un libro, sono cose che non facevo molto, molto spesso prima. Cucinare sicuramente è una cosa molto strana che ho fatto, anche le cose che ho cucinato devo dire che non sono state tutte un grande successo. Lewis Hamilton è l'uomo da battere. Secondo te qual è il suo punto debole e il suo punto di forza? Sto giocando con lui a Call of Duty sulla PlayStation e non è bravo come in pista, diciamo. Però sì, no, è sicuramente è l'uomo da battere sempre, però io darò assolutamente tutto. Carletto Leclerc, questo. Piacere trovare Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Buongiorno a voi. Come stai? Abbastanza bene, dai. Abbastanza bene, poi ne parliamo con calma. Ma Carletto Leclerc, Vettel e Leclerc hanno fatto sentire in questi giorni la loro voce, uno e l'altro. Insomma, l'acqua santa e il diavoletto che si diverte con i gran premi virtuali, nonostante le reprimende di qualche Savonarola, che voi giocate mentre tutti gli altri stanno male, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Però emergono queste due personalità un po' diverse. L'altro giorno ho chiesto, anche stupidamente, giocando a Marino Bartoletti, a chi vuoi più bene, a Vettel o a Leclerc, lo chiederei anche a te. A Leclerc io voglio più bene. A Leclerc non hai dubbi? Ti piace? No. No, è uno che mi piace proprio. Sì, il tedesco invece i Gran Premi virtuali non gioca perché non ho l'età, i figli e poi i social non sono roba per me. Rimangono per il momento Gran Premi virtuali, ovviamente, anche lì poi ci sono mille proposte, compresa quella di correre sulla stessa corsa due giorni diversi al contrario. Questa mi sembra abbastanza bizzarra. Sì, se ne sentono di tutti i colori. A me pare che il problema sia un po' più largo, cioè tutti vogliono ripartire concentrando in pochi mesi un anno, senza considerare che tutto questo avverrà quando la gente finalmente potrà andare a spasso, con una complicanza di audience e di tutto quello che ne consegue molto rilevante. Ma c'è un limite secondo te per cui si possa pensare a un mondiale che parte e che sia credibile? Un limite di gare? Ma mi pare complicata la logistica e anche la situazione lavorativa dei meccanici, considerando regole diverse e procedure e realtà, come diciamo, relazione col virus diverse nei vari paesi. Mi sembra complicato pensarci. Cioè, ci sono dei paesi che sono ancora in salita. Dipenderà anche dalle... dipende anche le regole di tutela dei lavoratori che sono in vigore nei vari paesi, non sempre come da noi, insomma. Mi sembra che siano più problemi di logistica che problemi di correre la corsa, di far la corsa. Certo. Considerato il numero di persone che comunque, ovviamente, banalità, si muovono per i circuiti. Stamattina è tornato invece a parlare Mattia Binotto al Guardian, avrei letto, dicendo che agitando una delle bandiere che ogni tanto vediamo agitare dalla Ferrari e dai grandi team, in questo caso oggetto del contendere la riduzione del budget, si era a 175 milioni di dollari, si è parlato di una riduzione a 145, e lui dice altre riduzioni del tetto salariale massimo non sarebbero da noi accettabili, e la bandiera è: attenzione, la Ferrari potrebbe guardare altrove, cioè non più alla Formula 1, cosa, minaccia già sentita ma non credo non praticabile. Sì, però fa bene secondo me, nel senso che loro vogliono, la Ferrari vuole salvare i posti di lavoro, cosa che in Inghilterra e nel mondo anglosassone non è percepita allo stesso modo, perché le relazioni sono diverse, e poi il mondo anglosassone ha una, come diciamo, una miriade di offre una miriade di alternative alle persone che lavorano nel motorsport. Poi c'è da dire che ci sono i team piccoli, spendono comunque meno e quindi per loro la situazione non cambierebbe. Ci sono molti modi di risparmiare i soldi, secondo me, non solo toccando il budget. E poi ancora di più in futuro, secondo me, la Formula 1 deve restare la Formula 1, cioè insomma deve essere una zona un po' franca di eccellenza, non per fare dei motorhome di 700 metri quadri a piano, ma per fare delle macchine che sono estremamente. Un'altra cosa su Vettel e Leclerc, hai letto anche l'intervista a Vettel, confessando la tua simpatia per Leclerc, che io condivido peraltro totalmente. Vettel ha detto: va bene, resto, ma non con un anno di contratto, perché io sono Vettel. Vabbè, allora, secondo me, se ci fossimo trovati in una stagione normale, la Ferrari avrebbe già fatto forse dei passi in altra direzione. Così non so, certamente a lui conviene restare dove va, non è che può metterla giù tanto dura, secondo me. È anche Hamilton che dice: ah, resta la Mercedes, ma dove va? Le squadre che possono vincere sono tre: una ha puntato su Leclerc, una ha puntato su Verstappen e una ha puntato, punterà ancora, ovviamente, giustamente, su Hamilton. Quindi può anche prendere dei gran soldi Vettel, andare a fare un anno in una squadra di altro tipo, ma non può vincere, mentre lì forse può pensare di farcela, può anche pensare di offrire qualche sorpresa. Però il problema è che non dipende da lui e non può metterla giù lui, non è più padrone del vapore, secondo me, Vettel in questo momento. Il problema è che per un campione come lui è un po' difficile capirlo questo, perché capita a tutti i grandi campioni che si trovano in questa situazione, la difficoltà è proprio nel comprendogno. Una domanda più larga di sistema invece, Giorgio, visto che tra poco parlo con Davide Cassani a proposito di una cosa che ha scritto ieri, che ha colpito me e molti altri, dal titolo "Posso uscire? Domanda rivolta alle istituzioni". Innanzitutto ti ringrazio per il tuo diario della quarantena, che è una delle mie letture preferite in questi giorni, lo pubblico sui social. Come avrai letto quanto ha scritto il CT, che ci sta ascoltando e che saluto peraltro. Buon pomeriggio. Ciao Davide. Buongiorno Davide. Ciao. Hai letto quello che ha scritto ieri Davide Cassani, no Giorgio? Ti riassumo. Care persone che avete in mano le leve del potere, e come si dice, siete perennemente occupati nelle stanze dei bottoni, cercate di capire anche noi che non abbiamo stanze e tra poco forse non avrò più neanche i bottoni. Se non ho capito male, non ci manca tanto al giorno in cui possiamo uscire di casa per davvero, anche perché bisogna tenere conto non soltanto delle necessità assolute che il virus comporta, ma che questo maledetto potrebbe nel prossimo futuro anche fare strage di anime. Questo è un rapido riassunto dell'incipit, ma il senso mi sembra chiaro, Giorgio. Sì, il problema è che per esempio, se uno vive a Milano ha una visione e ha dei dati diversi da una persona che vive altrove, diciamo altrove perché qualunque posto d'Italia fuori dalla Lombardia mi pare in questo momento più sereno e meno coinvolto in questo disastro qua. Io ho la sensazione che a un bel momento le ragioni o economiche o comunque l'insofferenza prevalgano. Il problema è che a me piacerebbe avere a che fare con un punto di riferimento univoco che prende delle decisioni. Invece qui nella domanda di Davide c'è dentro anche un disorientamento da 37 task force, da 37 punti di vista, da una quantità spaventosa di coglioni che dicono la loro anche se non sono tenuti a dire, se non sa niente. Cioè, in una giornata io ho tagliato fuori la televisione, non è possibile che chiunque si sente autorizzato a spiegare a me, a te e a Cassani come bisogna fare, anche se non sa cosa bisogna fare. Davide? Ma guarda, io sono stato il primo a dire resto a casa più di un mese fa perché sapevamo quello che stava arrivando ed è purtroppo arrivato. I nostri ospedali erano sotto pressione e quindi non era assolutamente il caso di uscire in bicicletta, perché ok, io sono da solo, ma devo pensare alla comunità. Nelle stesse giornate potevano esserci 200-300.000 persone ad andare in bicicletta, e se solo il 2% per la legge dei grandi numeri fossero cadute, fossero finiti per terra, avrebbero comunque intasato ancora di più ospedali che in quel momento avevano ben altro da fare, cercando di salvando centinaia di vite. Adesso le cose sono cambiate perché non c'è più quella pressione, perché da 3 giorni il trend è negativo, ci sono più guariti che malati, perché alla fine ieri ci sono stati 3.000 guariti, meno ricoveri, più posti vuoti nelle terapie intensive, e quindi penso che adesso sia arrivato il momento, ancora di più lo sarà il 4 maggio, dove lo sport individuale, e ripeto, lo sport individuale non solo non è dannoso, ma potrebbe essere addirittura utile. Questo è il mio pensiero, e difatti è per questo motivo che ho chiesto posso uscire, perché forse adesso ci sono i presupposti per dare la possibilità agli italiani di fare lo sport. E poi posso ben capire che a Milano la situazione è molto diversa rispetto a tante altre città e altre regioni, però secondo me, proprio per il motivo che ti ho detto prima, ci sono i presupposti per ricominciare una sana attività fisica, sempre però da soli. Sì, questa è la premessa. Il problema rimane il quadro che rimane abbastanza confuso, il quadro che si muove, che c'è intorno a tutta questa esigenza. Ti chiedo un attimo di pazienza mentre saluto Giorgio Terruzzi. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ciao. Traffico, torniamo subito con Davide Cassani. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Convocati. Davide Cassani, volevo capire anche la tua posizione in merito al modo in cui le istituzioni si stanno muovendo oppure non si stanno muovendo e stanno semplicemente temporeggiando nella gestione della ripresa degli sport professionistici. Ma sai, io mi occupo di ciclismo e so, almeno mi sembra, posso dire che la fase 2 per noi è abbastanza semplice, nel senso che da sport individuale possiamo avere la possibilità di allenarci senza arrecare danno, senza pericoli, perché io esco da casa, mi alleno e torno a casa e non incontro nessuno. La fase 3 è molto più complicata, perché alla fine si tratta di mettere insieme 150-180 corridori e a questo punto bisogna capire cosa ci diranno dall'alto, quali sono i protocolli, le regole da mettere in pratica. E quindi se sport come il tennis li vedo più praticabili, altri un po' meno. Però appunto secondo me bisogna fare le cose per gradi. Adesso secondo me, per quanto riguarda gli sport individuali, potrebbero esserci i presupposti, come dicevo prima, per ripartire. Potrebbe esserci i presupposti, però c'è anche chi dice, non ultima Federica Pellegrini l'altro giorno proprio a questi microfoni: guardiamo tutti al calcio, però è fondamentale per gli sportivi professionisti avere una tabella di ripresa delle attività che sia minimamente precisa. A maggior ragione si tratta di sport individuali, Davide. Non c'è un certo disinteresse, voglio dire, una certa sottovalutazione di questo problema? No, perché alla fine comunque anche qualche giorno fa noi tecnici, noi appunto di tante federazioni, abbiamo fatto una call con il CONI per capire, e soprattutto abbiamo inviato un questionario per indicare i gradi di pericolosità nelle varie specialità e nei vari settori, e quindi si sta lavorando su questo. Federica Pellegrini ha pienamente ragione, nel senso che alla fine comunque non c'è solo il calcio, anzi in Italia ci sono tantissimi altri sport che poi sono quelli che portano le medaglie, a proposito, sono le Olimpiadi. E se noi non partiamo, e parlo dello sport di elite, se non partiamo adesso arriviamo in ritardo, quindi scordiamoci le medaglie. E quindi alla fine comunque dobbiamo cercare di capire qual è la strada migliore per tornare allo sport senza senza pericoli, senza rischi, perché alla fine quello che ci tengo di più in tutto questo è comunque la salute dei miei ragazzi, ma sono loro che sono a centinaia e a migliaia che mi chiedono quando ricominciamo a fare sport, quando possiamo uscire. E quindi ripeto, secondo me, per quello che sta e come sta evolvendo la situazione, gli sport individuali possono essere praticati come il nuoto, come l'atletica, come il ciclismo. Parlo di allenamento, no? Sì, chiaro, parlo di allenamento. Ma non si può rinviare ancora sine die, no. In questo, ed è questo che dico, le risposte che arrivano dal CONI e dalle istituzioni le consideri soddisfacenti, quindi? Ma io penso che entro il 4 maggio ci diano le indicazioni giuste, lo spero. Hai sentito Nibali in questi giorni? Ma sai, Nibali no, non l'ho sentito in questi giorni, ma so che, vedi, anche in questo caso, tu pensa anche il senso di responsabilità che hanno avuto i nostri professori. Sono stati i primi a dire, noi stiamo a casa, ci alleniamo tra le mura di casa, ci alleniamo tra i rulli. Poi abbiamo avuto corridori come Giulio Ciccone, che domenica scorsa ha fatto 260 km, 10.000 metri di dislivello, ed è stato in sella 12 ore per scommessa, no? Per dirti. E quindi alla fine, per quanto riguarda il ciclismo, c'è la possibilità comunque di mantenere un certo grado di preparazione per i professionisti e per i giovani o anche gli amatori. Tornando a Nibali sai, si sta allenando e tutti quanti aspettano disposizioni. Proprio per dirti, anche lo stesso Daniel Ossa, che è un bravo professionista, l'altro giorno mi ha detto, io Davide, sai qualcosa, sai quando ci ridanno la possibilità di andare in bicicletta in strada? La risposta non ce l'hai in tasca né tu né nessun altro, però quanto è più grave che sembra non averla in tasca nemmeno quelli che dovrebbero darcela, come tu sottolinei e come noi sottolineiamo tutti i giorni. Io sono assolutamente consapevole che io non invidio chi deve fare le leggi ad oggi, perché alla fine è veramente complicato, perché domani cambia quello che abbiamo pensato oggi. Io sto pensando anche un po' al calendario che sta cercando di allestire l'Unione Ciclistica Internazionale, ed è veramente complicato, perché devi comunque cercare di mettere ordine in un qualcosa che non è per nulla sicuro, perché non lo sai quando si può ritornare alle corse, anche gli stati, ognuno dice quello che ritiene opportuno, non è facile, no? Perché no, poi arrivano i francesi e decidono per tutti. Ecco, poi arrivano i francesi, poi dopo a un certo punto arriva il ministro, ha detto, ma sai, noi in Francia possiamo anche fare senza il tour, e poi, cioè, è veramente complicato tutto questo, perché non ci sono certezze, siamo in balia di... L'altro giorno è intervenuto qui Pozzato, dicendo, va bene il Tour de France, va bene, è importante, però non è possibile che poi arrivino i francesi e decidono come va il calendario anche nell'incertezza. Questo è vero. Condividi? Condivido. L'ultima cosa, ti ho chiesto prima di Nibali, perché l'altro giorno, parlando con Leo Turrini, ha detto una cosa che mi ha colpito, e cioè tutti gli sportivi in questo periodo buio, tutti gli sportivi in là con gli anni, di tutti gli sport, hanno avuto una posizione quasi inconsapevolmente comune, cioè nessuno ha detto vabbè, la pianto qui, tanto l'età ce l'ho, le gare che contano le farò tra un anno, non ho più voglia del tempo di aspettare. Nessuno ha voluto e vuole che sia questa situazione a chiudere la loro carriera. Perché se sono arrivati a quei traguardi ci sarà un motivo, perché comunque hanno lottato, hanno raggiunto obiettivi e hanno avuto, ma sai, io dico sempre che il talento ti porta in alto, ma per restare in alto serve carattere, determinazione, grinta, no? E quindi dal momento che tutti questi avevano già in testa le Olimpiadi di quest'anno, hanno solamente spostato i loro obiettivi, i loro traguardi di 12 mesi, perché sono abituati a lottare, tanti arrivano da sport di fatica, e quindi dato che sanno benissimo che ci sono altre priorità e ci sono difficoltà che sono davvero vitali proprio in questo caso, loro hanno detto ok, aspettiamo 12 mesi e ci giochiamo una medaglia l'anno prossimo. È come se però e passi quindi sotto lo striscione dell'ultimo chilometro e poi esatto, ti dicono invece ce ne sono ancora 100. Lo so, però è la legge dello sport e soprattutto gli sportivi sono, anche i campioni non solo, sono abituati comunque a lottare nelle difficoltà e quindi penso che sia normale quello che tutti quanti hanno detto e hanno esternato. Grazie Davide, grazie sempre, davvero un piacere. Davide Cassani, con lui, ciao, con lui chiudiamo questa puntata e per quanto mi riguarda anche questa settimana, perché vi ricordo domani c'è Giovanni Capuano, ma soprattutto stay tuned perché sarà qui ospite Pierluigi Collina. Grazie a Claudio Schiattone e a Laura Vanossi e grazie naturalmente a Roberta Frisani in regia. Per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì, ciao a tutti. È stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.